I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Quando il taccon è peggio del buso, ossia tradotto, quando il rimedio è peggio del male. Il termine e l'espressione non è molto finanziaria, ma potrebbe ben descrivere quanto sta capitando sul cosiddetto decreto salva banche. Riepilogo delle puntate precedenti. Lo scorso 22 novembre il governo, in un consiglio dei ministri straordinario, decide che Banca Marche, Banca Etruria, Cariferrara e Carichieti verranno salvate con decreto usando il cosiddetto Fondo Nazionale di Risoluzione, ma che ha portato a perdere tutto il capitale investito, non solo gli azionisti di queste banche, valore 2 miliardi complessivi, ma anche e soprattutto gli obbligazionisti che avevano sottoscritto obbligazioni subordinate per un totale di 788 milioni di euro. I risparmiatori coinvolti sono 130.000. Se il governo andrà verso la strada del cosiddetto fondo umanitario, si rischia di dare un messaggio per due aspetti controproducente. Il primo è che tutti i contribuenti italiani comunque pagano per gli errori commessi non solo nella gestione delle banche, ma anche per i risparmiatori non correntisti che avevano scelto di investire in quegli strumenti. Il secondo aspetto, obiettivamente molto contraddittorio, è che non si capisce perché, se il governo riconosce il buon operato della Banca d'Italia, che negli anni scorsi comminò 8 milioni e mezzo di multe a queste banche, e il buon lavoro della Consob, perché i soldi pubblici devono andare a ripianare le perdite di questi risparmiatori? I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Il Ministero dell'Economia ha reso noto ieri il primo bilancio dell'operazione rientro dei capitali che si è chiusa a fine novembre. Di che si tratta? Chi aveva portato e deteneva illegalmente capitali all'estero, frutto di evasione fiscale, ha potuto utilizzare una procedura particolare chiamata voluntary disclosure per fare emergere queste attività, pagando le stesse tasse che a suo tempo non erano state pagate e ottenendo uno sconto su le sanzioni e anche un salvacondotto sui reati fiscali. Insomma, non un vero e proprio condono, ma certamente una forma di sanatoria dei capitali all'estero, adottata anche in altri paesi, perché sappiamo i paradisi fiscali in questi ultimi anni hanno cominciato a diventare più trasparenti, si sono impegnati a fornire agli stati, Italia compresa, i nominativi di chi ha conti all'estero. Ma veniamo ai dati. La prima cosa da dire è che sono emersi capitali per quasi 60 miliardi di euro. È possibile che all'estero gli italiani ne abbiano nascosti ancora moltissimi, ma questi 60 ora sono diventati trasparenti e il fisco sa della loro esistenza. La seconda cosa è che solo 15 di questi 60 miliardi sono stati effettivamente riportati in Italia. Gli altri 45, cosa che era prevista dalla legge, sono stati regolarizzati ma sono rimasti all'estero. La terza cosa è che il fisco italiano da questa operazione incasserà 4 miliardi di euro tra imposte e sanzioni, una cifra forse non enorme, ma che è il doppio di quanto inizialmente aveva stimato il governo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.